акции по низким ценам. Мастерская находится в промзоне Шушары. Работает с 9 утра до 9 вечера без выходных. Возможен выезд. Заинтересовались? Звоните. 8-920-865-8357. CQ Canale 10, regione. Автоматическая трансляция. Приготовьте записать номер телефона. Осуществляем полное техническое обслуживание гарантии 6 месяцев. В наличии новые ИБУ запчасти в реализации быстро. 8-921-865-83. Телефоне автоматическое. Приготовьте записать номер телефона. Мы предоставляем качественные услуги с гарантией по низким ценам. Возможен выезд. Заинтересовались? Звоните. 8-3-5-7. Чеку канал речи. Bene. A me, se vai tu, ma te lo fa pagare 130, 140, 150. Ma già è tutto bello disinfettato, ma in casa lo fa? Per forza, sì sì. Tutto ti apre tutto la parte, ti apre, certo. Allora, io l'ho fatto in studio, tutto quanto disinfettato, tutto con l'aereo sopra, tutto bello organizzato. Sì, 4 ore ci ha messo a farla a me. Ah, no, a me è tutto davanti, ha aperto davanti i guanti, il lattice, no, no. Creme, cremine, poi questo prodotto per l'antibatterico, no. Non esiste. come mai hai fatto anche questo? È una binaria all'altra, se dove non finita no. Sono ancora due sedute. Sembra non finito, boh. No. Sì, sì, questo qua è finito, ma non ho finito il tutto il tatuaggio, tutto il braccio. Ah, tutto il braccio ti prendo. Sì, sì, sì. E quattro sedute sono, 400. Che sarò? No, io così grande no. Sì, in testa ce l'ho tutto l'avambraccio, ma diciamo che non occupa tutto il braccio, non si vede, se io metto la maglietta non si vede. Sì, vabbè, già, non ti dite, è meglio un guto che tanto maranni. Vabbè, io il primo che ho fatto, prima di farmelo, ci ho pesato 100 volte e poi alla fine me l'ho fatto. E poi ho fatto il secondo, dovevo fare il terzo, però non mi decido. Vabbè, già. E voi porto questo qua, è bravo. È giovane, è bravo. Tu pensa lui si ha fatto tutta la schiena. Aspetta, ti mando la foto. Dov'è che lo fa questo qua, dove abita? Vicino a te abita. Vicino a me. Ma non penso che lo conosci, aspetta. Ti mando la foto di quello suo. Ma via Balleda? Ho capito, lo fa anche la foto anche della buona amica mia. Mi te l'ho mandato già. Quello costa, se vai a pagarlo, 3.500. Lui l'ha pagato qualcosina di meno. Deve fare tutta la parte di davanti adesso. È troppo invasivo. Io ho un amico che si è fatto l'angelo di cucina alle spalle, con le ali allargate e un angelo grande, che prende tutta la schiena. Lui piace già, No, ma infatti sono questione di gusti, dai. A me non piacciono tanti, capito? Mi piacciono due o tre al massimo, quando sono troppi poi sembri sporco. Ma l'ho fatto, questo qua, era un coso. Sì, se questo qua. Se questo qua va a farlo in studio, cosa ho fatto oggi, non ti bastano. Ti bastano 250-300 euro. Io l'ho fatto la stessa di tattoo, il Gargiero. Bravissimo quel ragazzo. Tutti e due sono bravi, sia lei che lui. Quando l'ho fatto io, fianco a me stavano facendo una ragazza e praticamente diciamo che era vicino al seno, era scoperta. Si hanno dovuto mettere separi. Io l'ho attaccata anche lì, fate, e tu vedi tutto quello che vediamo noi, per carità. Anche il piercing da tutte le parti si fa. Lo so. Ma io dico sempre, la via di mezzo è quella migliore, che essere troppo tappati a me non piace. Ne ho visto uno al mare che aveva la testa dell'elefante con la più lucida che scendeva verso l'avanti, là. E poi c'aveva le gambe, le dita, la faccia, tutto pieno. Ah, così, no, in faccia no. Mi nel collo mai mi faccio la stellina, se vediamo. E Marina ne ha? No, ma uno. Non le piacciono? No, non è che non le piacciono, non è che non... Cioè, non è che gli interessa farsi, ecco. Cioè, gli piacciono, sì. Magari vedere sugli altri sì, però per lui no. Esatto. Una farfallina, cos'è, tipo una rosa, se le fanno. Lo so. Allora, lei ce ne ha uno, se non mi ricordo il nome, praticamente metà viso, metà scritto. Ma non mi ricordo come si chiama. Ne ha uno, metà? Allora, è un viso, metà è viso e metà è c'è una scritta. Allora ce n'è uno. No, gli piace farsi quello. Ah, ho capito. Ciao. No, io ne ho due. Mia figlia già ne ha tatuaggi, io no, io ne ho due solo. Sì, non pensavo niente. Io? Pensavo che non ne avessi nulla. No, io ne ho due. Le due braccia in alto. Ilaria ne ha mi pare 20, 15. No, io ne ho due lo stesso, bisogna fare il terzo perché dicono che si fanno dispari. Non so se è così. Oh, giaccio. No, beh, io ne ho due sciogli e due... E basta, non ne posso altri. E cosa c'è tatuato? Lo scorpione e poi un paccioccio. Ah. Una patata. Cappa. Io mi ricordo il padre di Giampaolo Silvestro, c'aveva la sirenetta tatuata, che so con i tatuaggi ci avevo. Ehi, vabbè, allora ci facevano perché lui è stato imbarcato, capito? Quelli che sono stati imbarcati se li facevano i tatuaggi. No, io no, sto scherzando. Io ne ho uno solo, il mio lo scorpione, il mio segno zodiacale, ma mia figlia ne ha un bel, belli. Mia figlia ne ha un bel parecchi. Tutti da mano la sei fatta? Aspetta, l'ho mandata a Mitra, guarda. Sì, sì, tutti da manola, tutti da produttore. Sì, ne ho fatto uno da manola. Molto bravo. E l'uospe che sto seguendo una cosa qua. E poi vado a vedermelo. Non posso mollare che c'è una cosa aperta. Stavo vedendo tutti i pomelli del vetro, fatto luccio, che era dentro l'armadio. E un po' si sono sporcati, quindi sto tutti pulendo, sono meglio segnati, piano piano li devo piazzare di nuovo, se no mi imbaglio un po' lì. Io sono con tutta la sera a vendi, uia. Cambiato spine, togliendo la spina che si è incastrata dentro la ciabatta, insomma, di tutto di più. No, io ho problemi così, no. Però non sapevo cosa fare, mi gioco un buccio. Ho tolto tutto il coperchio, tutto pulito, sai. Tutte le viti, ho preso tutte le viti, tutte, insomma, la pulita, era un po' dentro l'armadio, ma si è sempre accesa, così carica e tutto. Non riesco a trovare il microfono, cazzo, se non è dentro qualche scatola. Adesso vediamo, ma c'è ragazzo, Maragana ragazzo. Quale microfono? Microfono del DAC, non riesco a trovare, ma c'è dentro qualche scatola. Ma l'originale? Allora, l'originale DAC. DAC piccolino, è un microfono piccolino, rotondo, tipo... Mamma mia, ecco la bene. Possibile, cazzo, non è facile. Cazzo, c'è l'avvento di questa radio. Le 4.40, cazzo, un baratto. Vabbè. L'ho lubrificata, tutta, niente da fare, deve essere storta, cazzo. Che giramento di coglioni, guarda. Come faccio adesso? Volevo anche consegnare queste radio. Che palle, cazzo. Ma tra casino li faccio. Ho tutta lubrificata, non c'è un cazzo da fare. Deve essere mezzo storta. Ma sembrerebbe che tocca lì qualche cosa, tra. Anche a me, ma viene male sta cazzo di 140 al libro, non c'hai posto, lo prometti. Sì, sembra che stia toccando da qualche parte, ma se tocca già se lo mangia, è la tua idea che sta facendo questa cosa. Sì. Piano piano sta andando e diminuendo, sì. Sembra che tocchi da qualche parte. Non si vede quando gira che la fa il libro non tocca. Deve essere quando chiudi. Niente a fargli la bagaccia di mamma donna tu brucia adesso. La facciamo girare a vedere se si consuma la sola in piazza che ti dica solo da farlo io. Cioè, secondo me si è mollata lì e sta toccando al ferro che c'è sotto. Ma c'è un perno, non si muove quella, no? Quella devi smontare per toglierla. C'è un asse, un perno che va dentro un cuscinetto piccolino. Se non si è consumato il cuscinetto. Vabbè. Adesso piano piano lo vedi. Io lo sto facendo sempre meno. Non c'è qualche pezzettino di qualcosa, ma con tutta pulita, soffiata, fatta. Gli ho messo, perché olio non se ne mette, gli ho messo appena appena di sapone. Vedi, guarda. forse non lo fa. Magari sto che forse hai ragione tu, magari anche il cuscinetto che si è sballato quel secondo come gioco. Allora, adesso lo sta facendo. Sta girando però. Yeah, vabbè, bisogna farla girare sto pezzo di cose. In modo che si consumi. Non so. Non l'ho mai controllata io questa, l'ho usata poco la roba di nuova nuova. Ce l'ho trovata e quindi la stavo dando una pulizia e mi sono accorto che la ventola era rumorosa, capito? Perché ho abbassato la potenza. Okay. L'ho tirata su per partire prima la ventola. Vabbè, adesso funziona. Sembra che stia andando. Anisetto. Non sei silenzioso. Mi è stato 2 secondi già che stavo provando dei post nel gruppo. Sono qua, è un attimo, riprendete voi. Vabbè, diciamo che subito sarà accesa, magari così come dici tu, ma se non balla, ho più un motivo parlato, se non balla già va bene dopo. Ehi già che l'ho il telefono, vabbè, adesso non lo sta facendo. Adesso di nuovo lo sta facendo, ma si sente, no? Prova a parlare. Guarda se si sente la ventola. Io per appena la sento, però non è rumorosa, è normale. La senti tu? Beh, minimamente la sento, il rumore della ventola è normale, come hai detto tu, non è come poco fa rumoroso. Sì, vabbè, c'è anche l'altro alimentatore, l'altra... la che è accesa, ventola ce ne sono altre. No, qua mettendo la testa è normale adesso. Allora la chiudo, vuol dire che si è consumato perché l'ho lubrificata. Aspetta un attimo, devo prendere le misure già, sono subito. Ma prima di lubrificare, buttaci un po' di aria, non hai di quella bombolette d'aria? Posso aver fatto l'anno con quella invece. Perché come l'ho soffiata ha fatto rumore, evidentemente gli ho mandato dentro qualche pezzettino di plastica, qualcosa, capito? Vabbè, adesso sta andando bene. Aspetta, devo prendere una misura, devo dare una misura a Luca e poi ti richiamo. Sì, sta sempre andando. Ma c'è normale, silenzioso è normale, dai. Va bene. La chiudo già, che Dio ce la mandi in buona, cazzo quando la chiudo non fa sedere il gasino, vabbè, a dopo dai. Ma non vedi se tocca da qualche parte, non riesci a vederlo? Non si vede niente, ma se è proprio, poi queste ventole sono quelle 140 in orizzontale, capito, è in una sede con i cazzo di lungo. Quindi gira lì quella sede, no, non le fa niente. Ho capito. Quello è il 440 o il 140? No, questo è il 140, 440 non ne ho io. Non ne voglio più di 440. Faccio il 140 e venduto, parte fine settimana, fuori in continente, e per il 430 mi sono tenuto a linea del 430. Il 430 non è V2? Sì, uno l'ho venduto. Uno l'ho venduto e ce l'ha Luca, per dirlo a te. Uno ce l'ha Luca e uno ce l'ho io di 4.30. E adesso ho dato anche 140, così li fate fuori tutti e me ne vengo una giù, intanto è inutile averne 3, 4, 5, sono arrivato a averne anche 7, basta. Va bene così, ne tengo una e fai due chiacchiere 27 e questa... Stavo appunto controllando se era tutto a posto, perché non vanno fatto, ma c'era il vento un po' rumoroso, e c'era lubrifico, e invece è diventata ancora più rumorosa, comunque sembra che si sia messa a posto, è sempre accesa. Sì, si è sempre accesa, va bene adesso. Magari c'era qualche pezzo di polvere dentro. No, qua pulitissima, perfetta. Ma come come l'ho soffiata, evidentemente ho mosso, perché c'è un ingranaggetto piccolino, no? E poi c'è un rivestimento in gomma, all'interno di questo rivestimento c'è un cuscinetto, evidentemente ho mosso quello e si è spostata, capite? Vabbè. Sono sempre la portetta perché l'avevo sollevata, come se 20 watt adesso, 20, 40 watt, cosa ridere, va bene già, vai, ti ringrazio e rimango in quel Rix e così la chiudo, ok? Ci sentiamo dopo. E io già sono con un apparecchio acceso. Yeah, va bene, dai. Se l'ho chiusa, adesso vediamo quando le fate, se è silenziosa, se no non so cosa fare. Anche se chi l'ha presa, di controllarsela lui, preso le tricchia, no, al vento non mi posso fare. Non lo faccio. Non è di ricambi. No, queste. Sono un casino. Fai Fabrizio un attimo. Sì, magari ne metti un'altra, cosa ne va? Interessate che era freddi. Luca, morto, è Luca. Sì, sono qua, quasi finito. Quindi se no, ma no, deve essere un secondo, dai, voglio a mangiare un pezzo di pomodoro che c'è un po' di langurino. Non posso mangiare altro perché devo tenermi a dieta, che se no non mi opera la glicemia alta. Io già sono qua. Io. Va bene. Una bomba a parola che sta radio. Ah, che puttana, speriamo che non pentirmi, no? Vabbè. Vediamo, sta scaldando. Vediamo se parte. E qui siamo a posto. Luca, aspetta, Luca. Bicicletta. Sì, vabbè, sono qua. Ah, già ci sono allora. Gappa. Oh mio, stavo chiudendo questa radio. Quindi siamo a posto. Vediamo un po'. Se non fa casino al vento, perché ci siamo messo di balle queste radio vecchie che sono. Mamma mia, che guarda. Arrivini, basta. E vengo una e boh. Se no c'è troppa manutenzione. Sì. Io c'ho il iPhone fermo, il Mobicon. Vabbè, ogni tanto già l'accendo. È che non capisco cosa c'ha il Mobicon, il iPhone. Funziona benissimo, e lo smite che un po' si imballa ogni tanto. Non so cosa c'ha. Se da cambiare il trimerino, però lo devo mettere di quel valore, altrimenti non va. Beh, devi seguire i valori, certo, altrimenti ti sfasa la dicitura, ti sfasa tutto, non è vicino. Vabbè. Uia, la giuntura di bici, bisogna mettere dentro l'armadio, se no è un casino. Lampe disedutto. Lampe modutto, ma diciamo dove la buttiamo? Cagamella, me. Oh Iuia, ciao a tutti e vi abbraccio, vi ascolto che sto facendo. Ebbene, Gargamella. E allora? Ebbene, a tu. E cosa ci prendi? Mi stai riparando delle cosettine e dando un po' di una sistemata a tutte le cassettine dei componenti, che non ne comprendo più nulla. Ogni volta che muoio fa che cosa, apro le cassettine e lascio tutto quanto buttato in giro, poi non trovo più nulla. Ma sei bussi, io sto cercando sempre l'alimentatore del... del modem, ma non so per cavolo l'ho messo. L'ho smontato, l'ho cambiato il modem perché me l'avevo regalato un altro. E quell'alimentatore lì non so dove sia. Perché c'ho la connessione un bel lenta. Cazzo, si occupa di Burumbe. Adesso devo chiamare a vedere se è un problema di modem o un problema di loro. Vabbè, è appena in riserva. Ah, fottito. Boh, andiamo. Ciao, Cla, come va? Tutto bene. Invecchiando, senza capelli, ci mangia ma non si tromba. Vabbè, almeno mangi. Ci siamo quelli che non mangiano e non trombano. Cla, poi trombano a te, si basta andarlo. Però a te si dà. Avete compreso da, ma viene asciutto a me, e la banda di giaccia lì, ma è un sito non c'ho tromba, capito? Ah, ecco, la specifica la cosa, ho capito, va bene. Ah, regà, di un piano forte se non tromba. Hai visto il tatuaggio, Cla? Un tamburo, è bello, quanto l'hai fatto? Stamattina, cazzo mi ha dolore. Ma non mi dà che non l'hai visualizzato. Che non l'ho visualizzato. Non ti dà che non l'ho visualizzato. Toccato il telefono in tizi faccio. Anche io, ma no, toccato oggi mandato, ma se no io ho visto. Aspetta che esco la WhatsApp e rientro a vedere se te lo va. Rientro. Qui là sono malato Antonio. Sì, sono qui, dai, lasciatemi fare, se no non combino niente. Ehi, aspetta un attimo lui. Perdona la mia ignoranza, ma cos'è? Luca, cos'è? Che disegno è? Oh, Luca, che disegno è? Hai visto? Sì, ma che disegno è? Sardegna, Cla, una Sardegna. C'è vero un capo e pugnetta disegnato. Quello è una maschera che ha quattro occhi, capito? Ah, Massimiliano ti hai messo nel braccio. Eia, Massimiliano. No, non voglio fare tatuaggi di vanilastri, capito? Non li voglio fare, che tutti i precisi vengono i tatuaggi. Tutti i precisi. E io l'ho fatto diverso, capito? Hai fatto bene, no, è bello, molto bello. Te l'ha dato adesso il blu? No, sono uscito e sono rientrato a WhatsApp. Ogni tanto si dice, ma chi fa uscito il telefono? Che telefono hai? Quello che aveva l'aria. Cos'è? Un A8 mi sembra, no? Noi quelli. Sancho, quello che hai messo il vetro tu me, che mi ha detto che era buono quel telefono. Ti ricordi, quello che avevi riparato l'aria. Ah, quello, beh, a posto. Sì, a posto. Ce l'ha comprato il nuovo. Però mi ha giubilato visto che ormai è più recente. C'ha più memoria, più tutto, capito? Ehi, mi devi no? Già va bene. Sì, ogni tanto voi sì, no, su WhatsApp che fa le pizze. Ehi, non so cos'è WhatsApp, cos'è? Ogni tanto mi fa così a me. Ascolta, che partenza questa radio, come sta andando? Bene? Di modulazione e tutto? Sì, perfetta. Va bene. Non ti avrei detto cosa, no? A posto, mi avevo andato lì. Che c'è, va. Che c'è, Maria. Io vedo una sulla Maruga. Entrate, funziona il vento, ma appariamo un trattore. Mamma mia, l'ho tutta lubrificata. Adesso sembra perfetta, non si sente. Sì, si è messa la testa, già si sente. Speriamo bene che non si torni a inceppare, c'è un bel casino. Questo vento, una volta si rovinano i cuscinetti, che altro diventano rumorose, allucinanti. Hai visto quella 140 com'è, no? Che in orizzontale. Sì. C'erano i cuscinetti, i micro cuscinetti, proprio che non si vede. Una volta che si consumano, perché insomma ci hanno gli anni suoi, iniziano a diventare rumorosi, ma io dopo un ingrasso. Nulla. Adesso ho messo appena di ingrasso di vasellina. Speriamo che regga bene. Cazzo, vai un trattore azzurro. Adesso funziona già da un po'. Sì, ancora non c'è sta cazza. Già va bene. Va benissimo, Giulio. Alla grande. Le demoliti sono questi 140. Era un anno dentro l'armadio. Vabbè. Però quando passo col 430, guarda, adesso tu senti questa radio. Questo è il 140, adesso comunque guarda. Questo è il 430, c'è la differenza di modulazione. Cazzo. Più forte, no? Più corposa, no? Ehi, di lusso. carpa di rosmarino, estrusando la metà del latte, quello erano 30, io ho 15, 15 latti, va bene, fate freddo, no? Non l'ho provato per niente oggi. Una grande, se c'è un abisso, ma anche la stagione è bella, bella, bella. E io la è venduta in partenza. Ho fatto una ricerca stamattina, ci ho preso la cassetta, romane, si imballa. E parte anche quella. E così ha girato Dreggia e Sugar, per carità. Ero di nuovo pieno di 140, 430, 440, giusto boh. Adesso vediamo di nuovo, ma tengo una giù. Vabbè, Lucarie, dai, ti saluto e vado a mangiare. Ok, che è proprio la cena. Cioè, se ci sei, ci aggiorniamo dopo. Ciao. Scusa, anche stavo mandando un messaggio, stavo scrivendo. Ehi, sono qua, io da, se ci siete dopo, non io, devo stare a casa. Va bene. Via, dai, vado a cenare, ciao ciao. Ciao Cla, buona cena. Ciao, tanto, già ci accoppiamo, ciao. C'è nessuno su 10? Ehi, già ci sono io. C'è anche Antonio Risero, ma sto facendo roba. Ehi, Claudio è andato a mangiare. Va bene, adesso devo mangiare a Dea. No, poco fa ho assaggiato quel cazzo di tè. Ma si guasta dopo un po' che lo tieni qua. Si guasta il tè già, sì. Ma a me non mi si è mai guastato, buh. Ma lo sentivo un po' acido. E allora lampazzino, se non vuol dire che non serve. Ma a te di quello già pronto stai parlando di quello in polvere? No, quello già pronto sta a te. Ah, quello lì sì. Quello lì magari come lo apri poi svanisce e si inacidisce pure. Mi ha preso la bizzata infatti, l'ho assaggiato, buh. Lo sentivo strano. Quindi tra l'altro una piccina da poco, mi c'era più il fondo praticamente. No, magari si era acidito, dai. Quello lì sì, se no pensavo fosse il tè quello da preparare. Io c'ho quello in bustino e me lo faccio io. Hola? Gianni, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Avanti, avanti gli fischi. Chi stava fischiando? Roberto Quadrato. Non mi è sembrato lui. Aspetta, vado a salutare Gio Maria, 23. Ragazzi, da Toni che è ammalato oggi, eh? Come state? DJ Claudio, c'è qualcuno degli inquilini? Vi siete tutti salutati, non c'è nessuno da Toni, cambio. Claudio! Sezione 10, c'è qualcuno? Ciao Roberto. Ci sei Gianni? Eia. Stai arrivando fortissimo, come va? Sono con lui. Aspetta un secondo, spengo il telefono che mi sta... Stavo guardando roba. Potevo spegnere. Sono c'è d'accordo. Come va te? Sta fuori? Un attimino. Ok. Come è così tardi, Roberto? No, vabbè, che ne sono, perché è 48, vabbè, ero su altre bande, stavo facendo questi diplomi, ho fatto qualche chiamata perché sono uscito, rientrato alle 7:15, dai, diciamo, normalmente entro un po' più presto, però sono arrivato un po' più tardi, ho fatto un paio di chiamate per diplomi e adesso le tesi adesso c'è qualcuno qua. Chi c'è? Solo tu ci sei. Io ero all'ascolto, sono andato a mangiare due pomodori perché avevo un po' di languore, non sto mangiando più altra roba perché devo tenere la glicemia tranquilla, dai. E quindi mi sono mangiato due pomodori, poi sono ritornato e non c'era nessuno. Ho capito, ti sei mangiato due pomodori? Sì, mi sono mangiato, sì, per merenda. Avevo un po' di languore, due pomodori e via, perché quelli lì non ti fanno salire la glicemia, capito? No, a me già mi piace, io ne mangio tanti pomodori. È che non se ne trovano più buoni come una volta, devi stare attento, a meno che non li prenderà qualcuno che ha un piccolo orticello, se vai a comprare dal negozio fanno schifo, ho comprato i citrulli, che schifo, alla Conad, già due me ne sono capitati, sembravano tutti belli, poi vai a mangiarli dentro, facevano schifo, infatti mamma mia. Sì, è vero, ti do ragione, Robert, anche la frutta è così. Diciamo che i pomodori, quelli che prendo ciliegina, sono buoni, costano una barca di soldi, però sono buoni, sono saporiti. E poi sono, diciamo, abbordabili anche quelli lavati, dai. Oh, io le mangio belli maturi, succosi, quelli verdi a me non piacciono, quelli arancio, dai, io devo mangiare belli succosi, che c'è un sacco di cose. Non è che li trovi facilmente, i ciliegini sono buoni, però sono troppo piccolini, se ti vuoi fare il panino, io me facevo sempre i panini col pomodoro, mettevo un pezzo di formaggio, del formaggino, era la morte sua. Registrato, ma io il pomodoro, la morte sua per me è con la maionese. No, maionese no, non mi piace, così l'assaggio, ma non mi piace metterci niente. C'è, mi sembra Claudio da Muro, su Claudio avanti. Ciao Claudio, ben risentito. Ok, 9 più 20, sta arrivando sempre con la 85 questo. Sì, ciao Claudio, ben sentito, cordialità anche a te. E allora, tutto bene? Sei a posto in parte. Mi devo fare un intervento alla gamba, le sapete? No, io devo fare l'operazione all'anca, all'altro l'avevo già fatta, adesso la devo fare a questa. Sono dolori atroci dell'altro mondo e da non poter resistere, è meglio che vi facciano un intervento e basta, io la finisco. C'ho dolori atroci da gridare, non ti dico altro. Però so, purtroppo, quando c'hai dei problemi, speriamo si risolva tutto bene per Gianni e per chiunque abbia delle difficoltà, che le operazioni siano risolutive. No, io sono fiducioso per Gianni. Perché ha avuto degli amici, tra l'altro ne ha fatta anche una mia sorella, dolorosissimi i problemi, però adesso dovrò operare l'altra gamba, da piccolina ha avuto dei problemi, mal operata diciamo, prima 40 anni fa non esistevano le tecnologie di adesso, per cui gli interventi erano un pochettino più meno efficaci, comunque adesso la medicina ha fatto dei grandissimi salti, per cui le cose sono risolutive. Ci vediamo bene anche per Gianni, siamo fiduciosi, per cui no, non possiamo dire altro che fare gli auguri. Ok Claudio, questo abbiamo detto l'85 con quel pulsantino che ti ho fatto schiacciare ieri. È bellissimo, spettacolare, molto naturale come modulazione, perfetta, non posso dirti niente. Quella di Gianni è un po' più alta come livello, un pochettino più gracchiante, un po' più ricca di acuti, però stiamo parlando di due tipi di apparati diversi, comunque vanno bene entrambi. Gianni, confermati, è un Royce con che microfono? È un Royce con non mi viene il nome, te lo dico dopo, perché sono al buio. Ma da tavolo o da palmo? Da palmo. Ah, tu vabbè, sei partito dei... No, proprio da palmo. Ieri, infatti, quando avevo la Claudio, lui c'aveva il microfono da palmo, io non ci riesco, è una cosa più forte di me. Adesso la radio nuova l'ho acquistato, c'ha il microfono da palmo, devo metterci su 2MC60, perché non mi piace tenerle in mano le cose. Finché sei in macchina, in emergenza, ti adatti, non hai possibilità di mettere microfoni, ma in radio è bello seduto, se di agire con un bel cuscino in modo che non ti stanchi la schiena, e dopodiché il microfono da coso, da tavolo. Di nuovo a te Muro, su Claudio, a te il mic. Comunque una static, vabbè, non mi veniva il nome, è una static, è un bel microfono, sono microfoni con capsula ceramica, per quello che ci hanno molti acuti, capito? Sì, no, vabbè, poi naturalmente se ti allontani appena appena, forse c'è molto vicino alla bocca perché sei molto amplificato. No, guarda, così sono un braccio lontano, come va? Sì, meno penetranti sono gli acuti, no, va benissimo, no. Ah, più che bene, niente da dire. Naturalmente stiamo parlando di due radio diverse, confrontata con quella che sta utilizzando Claudio, vanno entrambe bene, quell'altra è un po' più naturale, però vanno bene, niente da dire. Ok, lasciamo un secondino di bianco, se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprende Claudio. Vai Claudio. Adesso che apparato stai usando, se non sono indiscreto? Mi hai detto un 140, ah, è 450, sì, va bene, dai. E con che microfono ce l'hai? No, prendi l'MC60, te l'ho detto anche ieri, lascialo perdere la 90, è un microfono per certi tipi di altre attività, non va bene, mentre il 60 ti adatta anche qua in AM, va benissimo, ma l'MC90 in cosa? In banda laterale, ma tu lo usi anche in AM, per cui fai la spesa unica, tra l'altro si fa pagare anche un sacco di soldi, il 90, perché ti ho detto c'ha due capsule, un sistema diverso di trasmissione, preferibile il 60, dai, anche più commerciabile quando lo dovrai vendere un domani, il 90 è per i tenditori per fare certi tipi di cose. Bisogna stare molto attenti, perché mi è arrivato un apparato che praticamente era tutto rumoroso, non li bisogna più, e me non le prendo più, se riprendo le prendo dai negozi, direttamente dai negozi che magari fanno le fiere, ritirano gli altri apparecchi, ma quelli vengono sempre controllati, messi a posto, eccetera, se hanno problemi. Invece sui bici sono sempre butti duri, stai attento, perché anche io avevo intenzione di prendermene uno, però poi ci ho ripensato, perché scendevo, non c'era mai nessuno, tutto quanto, poi ci ho ripensato perché troviamo un po' da fare. Le ho chiusi gli apparecchi e già abbassarò questi, va. Sì, è preferibile trovare qua la persona come ho fatto io, sono andato, me lo sono preso, ho provato e tutto. C'è troppa gente truffaderina, ti dicono appena tarato da quello, fiammante, in scatola, completo, dritto per vederlo e sono rottame. Troppa gente ladra e truffaldina c'è. Ed è un problema poi rispedirlo, ecco, invece vai, te lo provi, se hai possibilità magari lo potresti pagare qualcosina di più rispetto a quello che vedi. Ma io ho fatto il presupposto che nessuno regalava niente, per cui quando c'è una differenza di prezzo troppo elevato da quello di mercato, qualcosa che non torna c'è sempre, per cui devi avere gli occhi aperti e le orecchie pure. Avanti Gianni. Ma infatti l'unica è vederlo di persona, Robè, perché sono tutti a scatola chiusa quelli che vedono da fuori. Io quando ho preso il 140 l'avevo preso da Tecnocomunicazioni e quello lì fa Tecnocomunicazioni, fa le fiere, e mi ha detto se ne ritiro qualcuno te lo faccio sapere. Tra l'altro questo apparato me l'ha venduto 250 euro, mi ha detto non c'ha niente perché l'ho tutto controllato, controllato le frequenze, tutto quanto è tutto a posto, è perfetto, c'è anche il microfono amplificato, c'ha le VC60, però sto sapendo come si fa tutto, mi ha detto non te lo do perché rimane un po' consumato. E ho detto allora fai una cosa, mandamelo nuovo le VC60, e mi ha scontato il prezzo di quello lì, capito? Mi ha fatto 60 euro in meno, me l'ha mandato nuovo. Ma quell'apparato andava bene, va bene, non c'aveva una cosa, un difetto, niente, e non l'avevo pagato tanto. Avanti, chiudo Ruggito. Scusate, mi sono allontanato due minutino, che mi hanno chiamato fuori un attimino. Ok, sì, come hai detto tu, non regala niente a nessuno, è a stare sempre con gli occhi aperti. Ok, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare sul canale 10. Avanti, chi vuole entrare? Se magari qualcuno si lamenta che sono passaggi troppo lunghi, e vediamo un pochettino. Niente, non ha risposto nessuno, già neanche il mic. Vabbè, cappagappa, no, io vabbè, diciamo che gli apparati ce li ho, che vanno bene, questo qua io l'ho preso da un collezionista, capito, ce l'avevo anche altri, è diventato radioamatore e si stava vendendo questi apparati che lui aveva in vetrina, nuovi, di zecca, solo perché doveva comprarsi il radio amatoriale, capito, che non ne aveva. Se, ha detto abbiamo malincuore, mi sto svuotando, se ti interessa anche altro appare, diceva va a toccare, c'è una stazione di base, e io ho preso questa qua, non l'ho pagata poco perché l'ho pagata 250 euro, però con le spese di spedizione e tutto, però è una radio che va bene, non mi ha mai dato problemi, è nuova, l'ho già un graffio. Scusate, Claudio, riprendo. No, riprendo io un attimino. Allora, sta vendendo, proprio io l'ho visto, adesso me lo sto riguardando, questo qua di Ittiri, che si chiama Chicco Chicco, non so chi sia, c'ha una marea di apparati, ma cose veramente belle, baracchini, ce ne sono della Grunding, di marchi che non conoscevo, della... aspetta, c'è da sotto mano, ve li dico. Ce ne sono un paio di pezzi veramente belli, stazione base, tra cui c'è un... come si chiama, uno Swan americano, ma proprio belli, apparati più grandi del coso, a livello di Saturneco, pure più grande, c'è anche un Saturneco nuovo, e c'ha, proprio se li vedi in fotografia sono fiammanti, questo Chicco di Ittiri. E dove l'avete visto questo annuncio che mi interessa? Su AliExpress, addirittura ci sono anche un Expander 500 della Tanner, poi c'è un Super Sidekick Chick sempre della Tanner, e poi ci sono dei bellissimi apparati, veramente belli, soprattutto il Grundig. Io Grundig è uno di quegli apparati che non ho mai sentito, non si sa come modula, in Germania ne hanno venduto tantissimi. E poi c'è questo americano, aspetta ti dico che cos'è, un attimino, aspetta li prendo io, scusate. Gianni, c'è anche il Cobra, poi c'è quella bella grossa, lo Stalker 12, poi c'era anche Riccardino, una radio bellissima, enorme. Poi aspetta cosa c'è. Mandami il link, fai prima Roberto, mandami il link, se c'è il numero di telefono mio, mi mandi il link e così lo vedo. Poi c'è questo Presidente da base, aspetta un attimino. cos'è, 10 metri il radio, boh, questo non so che marca sia. E poi c'è un Saturn Eco, sembra nuovo come cosa. E quanto lo sta dando? No, c'è scritto per informazioni telefonare, ci sono scritto 1 euro, baracchini vari, ma sono in buonissime condizioni. Aspetta, cosa c'è? Poi ce ne sono altri che non conosco, aspetta che baracchino è questo. Poi c'è questo Zodiac B2012P, bella radio, bellissimo, con l'orologio analogico, cioè come si chiama, tipo la display che girano, e c'è un bel altoparlante frontale, bello, questa è una bellissima radio, Zodiac B2012P, mai visto. La discarica la trovi quella. E dimmi in dire che andrò un biglio. L'ho buttato io l'anno scorso la discarica al B2012. Alice, vai alla discarica, lo trovi. Non so adesso dove lo buttano il ferro vecchio. Poi c'è Qcure 23 Plus. Siamo un bet, ragazzi. Ciao a tutti, buonasera. Sì, una carriola mi ho buttato, ragazzi. Una carriola proprio intera, tutti lì. Una discarica di coso, di scala R. Dove c'è la fai del ferro, capito? Ma ancora state spendendo soldi con questa radio vintage. Ma quanto te ne va state, Claudio? 10? Oh, quanto te ne va? E da che qua, acceso, perché l'ho tolto proprio avanti ieri, che era un anno e mezzo dentro l'armadio. L'ho tutto pulito, ho messo in sesto. E ce l'ho qua. Perfettamente sempre funzionante. Quello non si tocca. Quello è un pezzo da museo, quello me lo tengo, non ho mai altre, lui. Ho da parte un Galaxy, figurati, cosa mai faccio? Tanto. Io sono abituato a questo, non riesco, ogni tanto lo accendevo, lo facevo andare, esce molto bene. Ho venduto uno del continente, mi ha dato il messaggio, soddisfattissimo, perfetto. Capito, non avevo fatto mettere a posto lo smitter, c'era risaltato, allora l'ho riportato, me l'ha messo maggiorato e adesso non salta più. Va bene, avanti Roberto, non è compare di BU, non è compare di BU del radio, tenetevi quelle chiavette. Dai, riprende Roberto, un paio di passaggi e poi vi lascio che è pronta la cena. Ehi, anche un secondino, ho visto c'è una cosa che mi interessa, devo fare punteggio. Ok, no, non ne sto comprando di radio, però ho visto ci sono belle cose, anche interessato del vintage, c'è bello, c'è il Cobra, una bella radio, cavolo, completa, c'ha un bel display col menu e tutto quanto. Scusate per un secondino, che ci sono un paio di collegamenti, devo fare punteggio. 2 secondi e continuate, riprendi Gianni. Tu mi dici, mi dirai se il Cobra è base o se è di quelli per l'auto, dai. Avanti Claudio, buonasera di nuovo. Io già, Cobra. Il Cobra ce n'è uno solo, ed è quello che è tu, in assoluto number one, gli altri non mi piace, quello base pare una tastiera di coso di pianoforte, ma no, non mi piace, l'ho avuto anche quello. Poi c'è qualche altro modello, ma il modello bello, grosso e funzionante è quello che c'è tu, quello è bellissimo, quello sai che io l'ho usato. Ti posso dire che è una bellissima radio, poi gli altri non sono vintage, quella tua non è vintage, quella una signora radio. Va bene, avanti Claudio Mulo, se riprendi, sta a posto a casa, babbo dove sta? Ehi, se mi puoi mandare il link, mandamelo, così voglio vedere. Sì, vabbè, sono radio belle, ma non ha mai nei 6 anni. Questa che sto usando io, non era mai stata usata, capito? Era invettita, è nuova. E mi ha mandato col microfono originale, poi il microfono originale sicuramente aveva qualche problema, non so se era la capsula o qualche filo staccato, non l'ho manco controllato, gli ho piazzato direttamente questo qua perché ritenevo che per questi tipi di apparati americani andavano bene questi microfoni, infatti si è adattato bene. Sono rientrato? Avanti, chi è rimasto? Io, Claudio, tu e specchio da Ruggerizzo. Ah, okay. No, c'erano un paio di stazioni, pensavo dovevo collegare perché sto facendo dei diplomi. Ok, no, questa è una cosa bella che non lo conosciamo questa persona, questo Dizzi di Chicco, chi può essere? Chicco Dizzi, chiedi a Antonio, con il telefono WhatsApp a Jigsaw e te lo dice, loro si conoscono tutti, io non so chiesto Chicco. Perché c'ha due tanne, una Sande 500, un Super Cide, che poi ho visto queste basi, tra cui una Grundy, che io non le ho mai viste le Grundy, forse ce n'è una Walter, perché con gente che è di qua, tra di noi non ne ho mai sentito che gente c'ha una radiobase della Grundig. Ce n'è della Grundig, ce n'è della Geloso, ce n'è della Inuite, vabbè Inuite sì, ma ce n'è anche della Geloso di Bassi, sono anche molto belle. Sì, Walter qualcosa ce l'ha. Walter qualcosa ce l'ha, va bene. Niente, avanti Muros. Ripetete voi che sono a Donone, non ce la faccio più, da, riprendete voi. Riprendete, già sono all'ascolto. Cosa vuoi in cambio? Allora voi, io ho due belle, il Royce e il Pace, ma il Pace non lo voglio dare. Dilli Claudio Di Muro, su quanto vale il Pace, quanto lo stanno vendendo negli Stati Uniti? Sì, più, molto di più, l'ho visto a $980 negli Stati Uniti, non capisco perché ci abbia una quotazione così alta, forse perché non ne hanno fatto tanti, c'è una bella modulazione. Il Royce magari li trovi su 250, se trovi l'appassionato magari con le trinità te ne può dare di più, perché il Royce mio è nuovo, vabbè anche il Pace è nuovo nuovo, non ha nessun problema, e il Royce proprio è fiammante. Vabbè, no, vende, il prezzo lo fa, io per esempio sto vendendo il guinzaglio del cane a 1000 euro, te lo compri? Ma compreso di cane? No, senza il cane, solo il guinzaglio, ti do 1000 euro, e capisco ci sono, ognuno vende quello che le piace, il prezzo lo fa, ma te pare di comprare un Pace vintage a 400 euro? Con tutto rispetto è un cesso di radio, amico, già pensi che sia, e nessuno mi può contraddire perché li ho avuti prima di voi, capito? E quindi la miglior radio in assoluto, dei vintage, proprio dei vintage, in assoluto, proprio in assoluto, sempre funzionante nonostante sia un ibrido, è il DAC, capito? Che tu lasci anni e anni dentro l'armadio, vai e lo accendi, quelle radio lì non servono a niente, che cosa vanno? Non vanno in lunga, cosa c'hanno? No, io lo voglio, c'è una bella radio come vice trasmettitore, ma non hanno niente a che fare con quelli che io ho provato dei vintage, non hanno niente a che fare, perché tu prendi un valvolare tipo un come cazzo si chiama, quelli che c'ha valvolari Claudio, quelli sono radio eterne, quelli non va più vatti, poi c'è valvola, metti in un altro e funziona sempre, quando partono quelle radio lì te li rampi, non serve a nulla. Chiaramente d'accordo, no, il DAC io te l'ho sempre detto, è la radio più bella che ho visto, sino adesso quella che mi piace più di tutti, a parte che la dimensione, il peso, la radio non ce n'è per nessuno, però se tu guardi su internet e metti le cose, sulle valutazioni e cerchi Pace, cioè in America li vendono a prezzi fuori mercato, infatti chissà come mai così tanto, ci sono radio più belle, il DAC vabbè, non l'ho neanche cercato, mi immagino cosa possa valere una radio da paura, te l'ho sempre detto. Mettilo in testamento, ti auguro che muri dopo di me, però dovendo metterti in testamento pensa a me. A parte gli scherzi, vai di nuovo Claudio Muros. Kappa, no, non è così, cioè no, non so, vabbè, ma il DAC è valutato un sacco di soldi perché è una radio particolare, ce ne sono poche, io ad esempio ho il DAC il Mark 10, capito? L'SSB, poi c'è anche il Mark 9, però insomma sono delle radio particolari, ma io di Pace ne ho lavorato anche un altro audio, un 23 canali di vecchio stampo, che anche quelle valgono un sacco di soldi, cassone in legno, eccetera, ce ne sono tanti tipi di Pace. Però quando parliamo di DAC, parliamo di Trams, quello grande che è più lungo del DAC, però è molto più basso. Cosa ti può scegliere, ce ne sono tanti, però il DAC è una radio un po' particolare, capito, tutte le maniglie acciaio inossidabili, i pomelli cromatiche sono ancora cromati perfettamente, considera gli anni che ha, gli interruttori sono dei buoni interruttori, pure completo di tutto. tutto, perché è una radio che c'è il FAT, cioè il FAT Low, cioè di un SSB come la KF, ti abbatte praticamente la velocità dello smitter, c'ha degli accorgimenti, non ha l'FM perché è una radio americana, ma c'ha quattro strumenti da paura, cioè c'è il rosmetro che ti segna le stazionali, c'è lo stesso strumento di un rosmetro wattimetro della ZG, capito, con un sistema di illuminazione a lampadina in orizzontale, a siluro, c'ha un sacco di particolari, poi tutte le cose che tu muovi si senti, li segna nel display, qualsiasi cosa muovi, c'ha la potenza dell'assorbimento dell'onda della valvola in trasmissione, ti segna la potenza perché c'è anche il wattimetro, capito? C'è il modulometro, c'è lo smitter enorme, grandissimo, sino a 9,60, ma che lo vedi bene, l'ho nominato, mi avete mandato anche la foto. Insomma, è una radio un po' particolare che io a suo tempo, ma ce l'ho un sacco di anni, ce l'ho un sacco di anni, era costata $480 più $80 di pagamento, quindi fate un conto. C'è una radio che tu vai a pagare in euro sulle 600 euro, non penso che un collezionista la può prendere se le piace, ma uno dice cazzo, ma spendo 600 euro per una radio 40 canali più 40, perché questa è 40 più 40, non penso ne valga la pena, insomma. Vintage da collezione, sono vintage, vanno comprati come vintage, altrimenti ci rimetti capo e capo. Vai Robè. E questa come va? Questa va bene. Robè, ti piace questa radio? Meglio dell'altra, meno aggressiva, l'altra era un po' che entrava nelle ore che mi stai facendo sordo. A parte l'eco già va bene, molto più naturale la modulazione, l'altra era penetrante, mi spaccava i timpani, tipo quando ascolti i radioni ad alto volume, una cosa del genere, rispetto a Claudio Di Muro sei molto più forte, più intensa, dai. Comunque va bene questa, niente. No, Claudio, ti ho sempre detto, per me è la più bella radio vintage, diciamo, di Baracchini, non ce n'è per nessuno. Il tram lo conosco, mi pare che ce l'ha anche, credo che ne abbia uno Walter e uno, come si chiama, KB, sono un po' più lunghi però sono più bassi, bella radio, però il DAC è sempre DAC, è una cosa, non ce n'è per nessuno, con quegli strumenti grandi, illuminati, bella, poi a valvole, niente da dire. Ok, Muros, a te il mic. E io stavo guardando con le casse amplificate per karaoke, dai, mi stavo guardando un po' in giro, non per me ma per la mia ragazza che se la vuole prendere, e sto guardando quelle però da 1000-2000 watt, quelle grosse. Pensavo che si debbano in Piazza d'Italia. Si sente la musica, lo abito io. Attenzione alle potenze dichiarate, già, stai attento che ci sono belle fantasie. Lo so, qui c'è scritto così in effetti. A volte le usiamo, Claudio, le usiamo nella casa di questa amica mia, che c'è un bello spazio, cantiamo il sabato, andiamo quando facciamo le cene, eccetera. E lo stavamo facendo con la roba piccola, adesso piano piano ci organizziamo e lo portiamo noi o lo porta qualche un altro, facciamo le cose più in grande. Beh certo, si può fare, quando le cose si possono fare si fanno. Vai Robè, lo stavi dicendo? No, non è tanto la potenza che conta, è l'efficienza della cassa, perché tu puoi avere 2000 watt e se l'altoparlante è poco efficiente non è mai nulla. Perché io ti faccio vedere casse senza essere amplificate, quelle che ho a casa, quelle da monitor, da discoteca, che quelle con un watt te le butto dentro dalla casa, fanno 100 dB di efficienza. Poi vedi un'altra cassa, gli devi dare 50 watt per avere lo stesso suono, la stessa quantità di suono, si chiama sensibilità delle casse. Queste che vendono amplificate ci sono di tutti i prezzi, ci sono questi amplificatori di nuova generazione che sono leggerissimi e tirano fuori un sacco di potenza, però non è tanto la potenza, l'altoparlante la deve reggere pure quella potenza lì, perché ci sono questi della Behring che costano 200-300 euro, sono amplificatori da 200-300 watt e vanno bene, però effettivi. Poi vedi i cinesi 1000 watt e alla fine sono 80 watt di amplificatore, e a stare molto attenti, perché adesso prima quando scrivevi RMS eri sicuro della potenza effettiva, invece adesso fanno ridere, sommano potenze di picco e invece non vengono nulla con le potenze reali, per cui meglio andare a sentire qualcuno che ce l'ha già con la cassa, perché se tu dici 1000 watt, cosa te ne fai di 1000 watt se poi la tua parlante non serve? Noi stiamo lavorando casse Sony e JBL, sono casse serie, non sono casse, capito? Sì, ma la Sony non fa casse amplificate, la JBL le faccia JBL, stiamo parlando di un prodotto di altissimo pregio e di altissima qualità. Normalmente la JBL costruisce casse, non amplificatori, anche se le ha fatti qualcuno su licenza se li faceva fare, però ce ne sono tanti di marche, anche la RCF fa dei bei prodotti, non costano eccessivamente e vanno bene le True Voice, ce ne sono decine e decine, dico, poi se vuoi cose super professionali, quelle non sono per le nostre tasche sicuramente, ma trovi delle belle casse amplificate e usate che vanno più che bene. E si trovano gente che magari vuole cambiare tipologia di casse, chiedo anche Antonio Momolo che lui è nel settore, ti può dire qualcosa, magari visto che tra di loro fanno qualche serata, cosa del genere, magari qualcuno se ne vuole disfare. Io sono di quelli che è sempre meglio avere un amplificatore separato, perché quando rompi una cassa amplificata normalmente te rampi tutto, perché non ti metti a riparare l'altoparlante. Io dico sempre è meglio avere tutte le cose separate, è come le radio, per dire, quando c'è le radio che ti fanno tante cose, è meglio avere una per ogni frequenza. Se ti si rompe quella frequenza ti compri quella radio per la frequenza, mentre se ti si rompe un TS2000 che c'ho io che ti fa 5 bande o 4 bande che siano, ti rampi tutto, perché poi alla fine ti rompi le scatole. E così è il discorso dell'amplificazione. Mi dirai, c'è la comunità che ti porti la cassa appresso, c'è già l'amplificatore, attacchi microfono e vai, quella è la comodità. E boh, per tutto il resto io dico sempre amplificatore separato, ti metti le casse e vai alla grande, ti metti male il mixer per farlo funzionare, ci vuole anche il mixer, vabbè, dipende uno da cosa deve fare. Riprendi tu Claudio Damuros, grazie, faccio la prendere a Claudio, avanti Claudio. No, non c'è problema, figurati, tanto io adesso lascio perché vado a cenare, pronto la cena, sono le 10, vale 9:20. Ci sentiamo se mai se ci siete dopo, dai. O più tardi o le prossime. Ciao Claudio Di Muros, ciao Gianni Doppio Room e ciao anche a chi ascolta. Grazie, due chiacchiere e ci aggiorniamo, ok? Ci sentiamo e cambio partita di nuovo. Roberto, ascolta il finale e poi chiudo. Aspetta, prima di andare, non sei passato così, eri in lutto? Si sapeva che non è che era, si poteva fare, ma bisognava saperlo anche fare. Con quei ragazzini che ha, non vuoi solo vedere Juve o Milan, ecco di forza, che mi sta impressionando il Napoli, minchia. E adesso vediamo, vabbè, adesso quando incontrerà qualche squadra, il Milan l'ha incontrato, però di lì è stato un po' fortunoso la storia. Vediamo un po' quando incontra l'Inter e la Juventus, perché la Juventus secondo me fa riso. Vabbè, la Juve, quelli sono ragazzini che corrono sulla partita, ha avuto un calo impressionante, purtroppo è così il calcio. Vabbè, ti lascio andare, anche io tra poco vado. Ciao Claudio, buon tutto, buona cena, quando vuoi sai dove trovarmi e non mi so problemi. Ciao ciao, saluto a tutti in casa. Vai Claudio Di Muros e poi Gianni. Ehi là, ciao Claudio, ci sentiamo, la carica quando la fai. Vi saluto anche io cordialmente e vado a mangiare anch'io, dai. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene, non so quando ci sentiremo, perché a giugno mi chiameranno per l'intervento, dai. Magari anche con Riccardo posso modulare, c'ho quella fortuna di roba, io per quello uso i microfoni da palmo, perché io la stazione ce l'ho a fianco a letto. E allora portate il baracchino, una magnetica, te l'attacchi al letto già, in ospedale. Eh sì, ti mettono, cioè tutte e due le braccia occupate, ti mettono anche due flebole a volta. Ah, c'è CB-Talk, è divertente, amico, il cellulare, qualche scemo già c'è di lì, che sta diventando una porcacciolata, vedi le donne, non so se ti è mai capitato di ascoltare, sta diventando una tana di coso, di per attirare uomini, quella poi ci sono, vabbè, anche, ma ci sono anche persone in gamba naturalmente, però io qualche volta accendo, ma sta diventando una cosa allucinante. No, io l'ho tolto, c'è un break sottofondo, avanti che ha breccato. Mi mandava la bannacca a me sinceramente. A me è sembrato break, così ho sentito, vabbè, ci sentiamo ragazzi, arrangiatevelo voi e ci sentiamo, dai. Buona serata, ciao Claudio Di Muros, ci sentiamo qualche cosa. con te, dai. Buona giornata per domani. Ciao ciao. Grazie, vi ringrazio, dai. Ci vediamo bene. Se va come l'altro va bene, dai. Ciao ciao. Ciao Gianni, buon tutto, dai, auguroni anche per te. E basta. Ma c'è che c'è qualcuno, non so se stava facendo fastidio o non stava uscendo avanti, chi vuole entrare? E quando parlavi tu ti disturbava, nel senso ti sentivo, però andava portante, un po' sotto si sentiva. Va bene, ok, no, lo conosco, non l'ho mai provato, Salvatore Maizale me l'aveva detto qualche anno fa che lui l'ha provato e dice che è una cosa interessante, però lì la tutela della privacy non è molto, cioè bisogna stare attenti per quel coso lì. Sì, sì, è una cosa carina, interessante. Voglio farti fare la prova di ieri. Allora, ti ricordi quel tastino che ti ho detto che ti cambia la tonalità? Fammi due passaggi, voglio notare che differenza ha notato Carlo. È un bel asino, riesci a c'era la posizione normale, quella che avevi prima. Allora, quella funzione lì si usa in banda laterale, quando fai DX, che è necessario farti sentire, per cui ci vuole una tonalità penetrante. In adeguatori utilizzano infatti le frequenze acute proprio per farsi sentire in lontananza, per dire a parità di segnale, se c'è un S1 che appena appena ti sentono, con quello lì riesci a penetrare per le lunghe distanze. Magari se c'è un segnale debole che ti ascoltano male, magari metti quella funzione lì che riesci ad arrivare un po' come performance, riesci a farti sentire un pochettino più lontano. E un'altra cosa ti volevo dire, quella lì è un amplificatore d'antenna, lasciano sempre inserito, però tieni presente che i punti S non sono reali, sono sempre un po' amplificati, cioè maggiorati rispetto alla realtà. Come ti ho detto, se uno vuole un segnale reale le devi dare senza il preamplificatore inserito. Dopodiché il microfono, il Mickey Gain, fammi vedere una cosa, tu a quanto ce l'hai? Mentre il Mickey Gain ce l'hai al massimo, prova a sollevarlo per curiosità al massimo, stai leggermente amplificando troppo, lo abbassi un pochettino, tra il massimo e l'8 metri, va bene, senza strillare, senza tenetelo sempre alla stessa distanza, già va bene, perché è leggermente più basso rispetto a loro. Comunque, considerando che c'è un microfono non amplificato, sta andando alla grande. Un'altra cosa, il fatto di vedere che ti dà più potenza alla radio non significa che stai erogando più potenza, stai attento perché puoi avere il rosso alto e ti somma la potenza d'uscita con quella riflessa, per cui tu sei convinto che magari ti sta dando più potenza alla radio, ma non è detto. Sì, è stato un buon affare, un buon prezzo, un ottimo prezzo considerando la radio. Ok, niente da eccepire. Però carissimo Claudio, io ti devo lasciare che si deve andare a mangiare la pappa, che è già tardi. Dai, ti saluto anche gli eventuali qua, che se WL presenti. Saluto a tuo babbo, tua mamma, tuo fratello, saluto a tutti in casa. Ciao ciao, cuore ti da parte mia.